guardie o ladri? Di Roberto Galullo. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Guardie o Ladri, la trasmissione che oramai da oltre un anno e mezzo affronta ogni sabato a quest'ora per mezz'ora insieme a voi, cari radioascoltatori, i temi legati alla criminalità e alla legalità e alla sicurezza. Oggi trattiamo di un tema molto interessante e spesso sottovalutato, vale a dire parliamo della morsa della criminalità nelle nostre campagne, la criminalità che assale i nostri agricoltori. Del resto non è questa una novità. La mafia nasce come mafia rurale in Sicilia e poi da lì si estende anche nel corso degli anni e dei secoli alle città, ma è una mafia ancora oggi potente e presente. Lo facciamo oggi perché? Perché da pochi giorni la CIA, vale a dire la Confederazione Italiana degli Agricoltori, ha anticipato le conclusioni di un dossier che mette sotto la lente il racket, i furti, l'abigeato, ebbene sì signori, ancora il furto di pecore, di bestiame esiste nel nostro paese, il pizzo, l'usura, le rapine, le aggressioni ed un giro d'affari miliardario, si parla di circa 10 miliardi di euro. Di questo noi oggi parliamo, della criminalità che assale le nostre campagne, e lo facciamo a partire dal presidente della CIA, appunto la Confederazione Italiana degli Agricoltori, Giuseppe Politi. Buonasera e benvenuto, Politi. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Io direi di partire da un dato che a me francamente ha impressionato e poi vedremo nel corso della puntata che arriveremo anche a questo con una storia. Vale a dire che quella che prima era una criminalità che colpiva le regioni a rischio, no? Vale a dire la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, oggi sta risalendo la penisola, il centro e il nord Italia. Ecco, Politi, vogliamo un secondo accentrare la nostra attenzione proprio su questa risalita della penisola da parte della criminalità? Sì, sì, come le diceva, noi abbiamo predisposto un dossier che presenteremo, diciamo, fra qualche settimana, quando sarà anche tipograficamente, diciamo, sistemato, partendo da una base, cioè la nostra indagine che già avevamo svolto nel 2002 e che ha avuto, se vogliamo, anche l'attenzione della Procura Antimafia, dall'allora responsabile il dottor Bigna. In questa indagine del 2002 mettevamo in evidenza come, diciamo, la malavita organizzata nelle diverse forme e soprattutto allora nelle regioni meridionali, Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, cioè quelle erano le regioni che avevamo messo un po', avevamo monitorato e emergeva un dato preoccupante, quindi di un interessamento forte, di una presenza forte della malavita organizzata a danno sostanzialmente degli agricoltori, nelle varie forme, così come veniva detto, che va da quello classico, cioè dal furto del bestiame che sta tornando con forza in questi ultimi mesi, a quelli più sofisticati, diciamo anche l'utilizzo del territorio a danno in alcuni casi degli agricoltori anche per le cosiddette ecomafie, quindi l'utilizzo dei rifiuti. Certo. Successivamente abbiamo acceso una luce su quello che avveniva in alcuni mercati, soprattutto nei mercati ortofrutticoli, no? Dove per primi abbiamo denunciato con forza questo forte dislivello tra il prezzo all'origine pagato agli agricoltori e quello che i consumatori sostanzialmente pagavano, per vedere se era semplicemente un malfunzionamento dall'interno delle filiere, e abbiamo monitorato alcune situazioni, in questo caso al sud e al nord, cioè alcuni mercati ortofrutticoli, da Licata in Sicilia, al mercato di Vittoria in Sicilia, a Fondi nel Lazio, Padova e Bologna, e abbiamo scoperto sostanzialmente, ovviamente con delle situazioni diverse, che nei mercati ortofrutticoli ci sono delle forme di delinquenza, insomma, di malavita organizzata che comprimeva e limitava, diciamo, i diritti degli agricoltori duri e condizionava anche i prezzi finali di immissione del prodotto sui mercati. Ha fatto bene a ricordarlo, Politi, anche certo. Perché sappiamo, io ne ho scritto anche sul mio giornale, che il mercato ortofrutticolo di Fondi e quello anche di Milano sono sotto la lente delle direzioni distrettuali antimafia, perché effettivamente sembrano infiltrati dalla malavita. Ma ora io a questo punto dico sembrano ed è un eufemismo. A questo punto io passerei a Carmelo Gurrieri della Confederazione Italiana Agricoltori in Sicilia, presidente della CIA Sicilia. Gurrieri, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, in Sicilia qual è la situazione? C'è una rinascita della società civile, di questo noi ne prendiamo atto e siamo a dir poco felici, perché la Sicilia è una terra meravigliosa, fatta di gente onesta, con un pugno di criminali che purtroppo cerca di affossarla. Allora, qual è oggi la situazione in Sicilia, Gurrieri? Situazione che comunque la presenza della criminalità mafiosa organizzata nelle campagne non è mai venuto a mancare, e che noi, grazie all'iniziativa della CIA nazionale, abbiamo messo in evidenza come il ritorno forte della mafia nelle campagne oggi è evidente ed è un risultato anche dello spostamento di interessi da parte della mafia in una regione e in un settore dove continua, malgrado le difficoltà e le crisi, ad essere il settore maggiormente produttivo dell'isola. Quindi assolutamente, perché ricordiamolo, Gurrieri, che l'agricoltura in Sicilia vale una bella fetta del prodotto interno lordo, o sbaglio? Sì, in Sicilia si produce diciamo per 3 volte la produzione, il PIL nazionale dell'agricoltura, ed è uno di quei comparti che produce più ricchezza anche rispetto alla stessa industria, quindi è una vocazione, una realtà assai importante che purtroppo viene marginalizzata dai problemi, diciamo, dell'attenzione delle forze dell'ordine, perché negli anni si è prestato più attenzione alla criminalità nel centro urbano che rispetto alle aree rurali. Adesso, grazie anche alla nostra iniziativa, alle nostre denunce, anche all'azione che stanno svolgendo gli agricoltori, che si stanno ribellando a una omertà che era tipica delle aree rurali, il fenomeno emerge e sta emergendo nella sua complessità e anche nella sua modernità. Bene, Gurrieri, ha fatto benissimo a dire che finalmente gli agricoltori raccolti intorno alle associazioni certamente danno più forza, nonché alla voce del singolo, questo è logico, si stanno ribellando. Ebbene, noi siamo qui anche per questo, noi giornalisti, per cercare di dare una mano alla società civile, alle persone che hanno il coraggio di denunciare, ed è per questo che a me fa particolarmente piacere ascoltare la voce di Totino Licata, che è il presidente del comitato anti-racket, appunto, di Licata, sembra un gioco di parole ma non lo è, in provincia di Agrigento. Buonasera e benvenuto, Totino Licata. Grazie. Allora, ci parli del suo comitato anti-racket. Qual è la vostra funzione? Cosa fate? Come date una mano alle vittime del racket? E il racket è la seconda tra le piaghe che affligge gli agricoltori in Italia. Allora, vorrei premettere, io sono padre Totino Licata, sono un sacerdote, sono presidente dell'associazione anti-racket e anti-usura di Licata. E questo movimento è nato con me quando allora ero parroco a Capo d'Orlando e c'era con me Tano Grasso, da dove proprio è partito questo grande movimento contro il racket e contro l'usura dopo. E ora mi trovo a Licata, che è la mia città natale, e qui abbiamo fondato finalmente una associazione anti-racket e anti-usura. E uno dei problemi più grandi è stato quello del definire realmente l'impegno. L'impegno è stato verso le campagne, perché c'è una grandissima zona tra Licata e Gela in particolar modo, dove così per natura manca l'acqua, però sappiamo che quelle sono terre che danno grandi frutti, il che significa che in un modo o nell'altro l'acqua arriva. Noi desideriamo e abbiamo lavorato tanto in maniera tale che i contadini non prendessero acqua da chi di dovere della zona e pagarla a lui in maniera illecita, ma abbiamo cercato di parlare con loro, di raccomandare loro che la legalità è una cosa straordinaria e non deve essere per noi come qualcosa che sta di fuori di noi, ma dentro di noi. Per cui se qualcosa dobbiamo chiedere al comune, allo Stato, a chi di dovere, dobbiamo pagare secondo la regola e secondo la legge, ma mai in maniera nascosta. Padre Totino Licata, la fermo un secondo perché ora abbiamo le informazioni sul traffico e poi torniamo subito in studio. Guardie o ladri? Bentornati all'ascolto, chi vi parla è Roberto Galullo. Stiamo parlando delle mani della criminalità organizzata nelle nostre campagne, nei nostri campi, nell'agricoltura italiana. Una criminalità organizzata che fattura 10 miliardi di euro all'anno secondo il dossier della Confederazione Italiana degli Agricoltori. Stiamo parlando quindi di racket, pizzo, usura, rapine, aggressioni, tutto ciò che mette in difficoltà la nostra agricoltura. L'abbiamo fatto nella prima parte della trasmissione con la voce del presidente della CIA Giuseppe Politi, di Carmelo Gurrieri che è a capo della Confederazione regionale in Sicilia e con la voce di padre Totino Licata che è il presidente del comitato anti-racket appunto di Licata in provincia di Agrigento, un altro prete coraggioso e chi segue questa trasmissione sa che esattamente 2 settimane fa abbiamo parlato di preti coraggiosi, di preti in prima linea, di sacerdoti in prima linea contro le mafie e lo abbiamo fatto nel ricordo di un meraviglioso sacerdote che era Don Pino Puglisi, ucciso a brancaccio da un paio di vigliacchi che non oso nemmeno chiamare esseri umani perché tali non erano. Oggi stiamo appunto parlando di mafia e di mafie in agricoltura e ascoltiamo a questo punto io direi la voce di un produttore agricolo di Licata di cui non posso dire il nome, lo capirete, è per una questione di riservatezza ma anche di difesa di un produttore agricolo che ha avuto il coraggio, che ha il coraggio di denunciare i mafiosi, perché oggi abbiamo sentito da padre Totino Licata usare, come dire, anche da parte sua un po' di riservatezza quando diceva che ci si rivolge purtroppo in quelle terre tra Licata e Gela a chi di dovere e chi di dovere purtroppo lì è la mafia che ha dei pozzi abusivi e che ancora con le autobotti magari porta l'acqua e quindi se la fa pagare. Quello che è un diritto purtroppo diventa una merce di scambio per le cosche di Cosa Nostra tra Licata e Gela. Allora io do il benvenuto al nostro produttore agricolo di cui non posso dire il nome. Buonasera. Buonasera. Qual è la sua storia? Ce la racconti? Praticamente è un fatto di usura. Qua in Sicilia, nel sud, nel meridione, praticamente le banche danno i soldi a chi ce l'ha. Praticamente non investono sull'idea, non investono su niente. Io ho denunciato i fatti e do un grande applauso alle forze dell'ordine e alla magistratura per la celerità e tutto quello che hanno svolto. Però, come il procuratore De Francisci diceva e dava un monito alle banche che non praticamente collaboravano subito a queste inchieste, lo rifaccio ancora io, questo monito lo rilancio perché effettivamente c'è questa, si inizia da lì. Volevo soltanto riassumere per far capire meglio ai nostri radioascoltatori la cosa alla quale lei si riferisce ed è la cosiddetta operazione Sciacallo condotta nel novembre del 2007 che ha portato all'arresto di 15 persone per estorsione legate al clan mafioso all'Abisso Greco di Licata. Questa indagine è stata condotta dalla procura di Agrigento e il capo del tribunale di Agrigento, Ignazio De Francisci, ha spiegato appunto che questa operazione ha avuto dei protagonisti nuovi, attesi ed indispensabili, ha così spiegato, vale a dire le banche. E ha fatto bene, caro produttore agricolo di Licata, a ricordare l'importanza del ruolo delle banche. Mi tolga una curiosità, che tasso pagava lei a questi usurai? Dal 10% mensile al 300 360% annuale. Ecco, ma chi le ha dato il coraggio di uscire fuori da questa condizione? Ma il coraggio è perché non c'è via di uscita. La via di uscita è soltanto andare verso la legalità. E il coraggio me l'hanno dato sia gli inquirenti, sia la famiglia e sia i procuratori che la prima volta mi hanno sentito e mi hanno consigliato di rivolgersi alla giustizia. A questo punto io chiedo invece a padre Totino Licata, quanti ce ne sono di questi casi? E ancora troppo pochi. E penso che quella che noi chiamiamo la presenza di un esercito che serva a contrastare queste cose deve essere un esercito di produttori, di gente che lavora, di gente che viene vessata. Allora sì, possiamo avere la capacità di dare un senso legale alla nostra vita, altrimenti restiamo ancora fermi a guardare chi ci può aiutare, ma in maniera illegale e non in maniera legale. Assolutamente. Abbiamo bisogno di gente che debba denunciare. Allora, per i nostri radioascoltatori più affezionati, non sarà una novità sentire dalla mia voce la denuncia delle mafie in ogni loro forma, sia ben chiaro, non soltanto al sud, dove ormai hanno devastato tutto ciò che si poteva devastare, quindi toccando il fondo si risale ringraziando il Dio, ma la presenza delle mafie anche al nord. Allora io dico grazie a Cesare Fiumi, un giornalista del Corriere della Sera, che sul magazine di alcune settimane fa ha portato alla luce la mafia alpina dei meli decapitati, la così ribattezzata sul magazine del Corriere della Sera. Una strage che passa sotto silenzio, ci ricorda appunto questo giornalista del Corriere, che accade da anni in Val di Non. Una strage di meli, quindi della vita degli agricoltori, che vengono queste piante tagliate nel corso della notte alla radice, quindi è impossibile farle ricrescere, danni disastrosi per l'economia e per gli agricoltori. È stata ribattezzata anche Roncola Selvaggia. Sapete che a noi giornalisti piacciono queste esemplificazioni. E noi abbiamo un produttore di mele della Val di Non a cui do il buonasera, Mariano Chini. Buonasera, Chini. Buonasera agli ospiti e agli ascoltatori. Allora, racconti un po' lei questa storia di questa mafia alpina. Ma cosa sta succedendo nella Val di Non, patria delle mele? L'articolo di Cesare Fiumi è un po' esagerato. Io sono stato uno colpito da questo problema. Ecco, riportiamolo alle giuste condizioni allora. Sì, effettivamente da 5-6 anni ci sono 7-8 personaggi che non si sa come quantificare, perché effettivamente qua abbiamo in valle siamo tutti piccoli produttori, piccoli paesini di 500.000 abitanti. Dunque anche all'interno delle nostre comunità può esserci qualche persona che o ha delle piccole rabbie o dei vecchi torti subiti tempi addietro, e non si riesce a capire perché una cosa è successa a me e poi è successa... Ecco, ma lei quante piante sono state tagliate? Quantifichiamo anche, perché lei sta riducendo... Io ho avuto tagliati 392 piante. A me non sembra poco però, non mi pare una cosa... Non è poco, ecco. È un lavoro di un paio d'ore per quello. Ecco. Voglio dire, io che sono un amministratore di un magazzino, un semplice consigliere, magari non è il sistema, perché se uno fa l'amministratore non è il sistema di andare a tagliare le piante o fare dei tiri del genere. Comunque noi qua da noi non è che abbiamo dei gruppi di mafiosi che ci fanno delle intimidazioni, perché per esempio io non ho subito nessuna telefonata, non ho subito nessuna intimidazione. Magari uno si riesce ad arrangiarsi, lavora bene. Però Chini, veniamo al punto. Abbiamo detto che le mafie hanno mille vesti e spesso si travestono, anzi, con il volto di una legalità apparente. A lei ne hanno tagliati 392, sì. Ad altri 470, certo, ad altri ancora, certo, 142. Non mi pare una storia da educande questa, è qualcosa di organizzato. No, dico, noi non è che io o anche gli altri penso non abbiano avuto delle intimidazioni. Certo, ma sono andati subito ai fatti. Siccome questi fatti qua subiscono, abbiamo una valle, siamo 5.000 soci, praticamente qualcuno ci lucra. Paesini, ci sono vecchie storie, magari qualche rancore che io non lo posso sapere, perché non si può sapere. E arrivano questi personaggi qua che la notte ti fanno queste cose qua, gente che non ha il coraggio di affrontarti, dirti chiaramente, certo, come la certo, pensa, certo. O non rispetta le tue idee, o non la pensa come te, o la pensa diversamente. Da una decina d'anni succedono queste cose qua, certo. Perché effettivamente non riusciamo neanche noi a, però da chiamarlo sistema, è vero, un sistema mafioso questo, perché uno che si nasconde la notte, ecco, dietro queste cose qua non... Ecco, io francamente non troverei altro modo per descriverlo, nonostante in Val di Non non lo metto in dubbio e non ci sia la presenza della criminalità organizzata, così come si vede nei film del Padrino. Chiaramente non siamo a quei livelli, assolutamente lontani anni luce, però c'è qualcuno che si organizza per compiere un crimine che, come dire, piega poi l'economia di produttori onesti. Allora io ringrazio ovviamente questo nostro ultimo ospite, Chini, ringrazio il produttore agricolo di Licata che ci ha dato la sua testimonianza, padre Totino Licata, Carmelo Gurriere, Giuseppe Politi, Roberto Galullo dice grazie in regia anche a Valeria Bernardi, in studio Laura Faggin, vi dà appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Guardie o Ladri.